c'è tutto un sistema un po' ingarbugliato, questi emigranti che non si riesce a stabilire niente, si va sempre alla deriva, non vengono fatte leggi chiare, e si va un po' alla giornata. Sono i politici che la pensano in un modo, che la pensano in un altro modo, l'Europa pure, che il Papa, poi anche il Papa, che... e loro non si definisce la cosa, perché si va ancora brancolando nel buio. Ci vogliono leggi chiare, ci vogliono. Se sì e no e no. Sono anni e anni che c'è ancora oggi questa confusione, si sta ancora oggi. Radure. Dirette streaming dagli eventi che colorano il tessuto multiculturale della Campania. 10 luglio 2019, siamo in viaggio verso Caserta perché oggi gli attivisti del centro sociale ex Canapificio hanno convocato un sit-in sotto i portici del comune. Il tempo è finito, si legge sugli striscioni. Chiedono alle istituzioni di mantenere gli impegni presi per una nuova sede, dove poter svolgere con dignità il proprio lavoro e continuare a garantire la qualità dei servizi di consulenza e integrazione dedicata a cittadini stranieri e italiani. Servizi che da marzo continuano a svolgersi in strada, in spazi provvisori e senza finanziamenti. Io e Tony abbiamo intervistato attivisti, beneficiari e passanti, e qui c'è il nostro racconto della giornata. Siamo qui con Daniela Volpicina, giornalista del Mattino, che si occupa da molto tempo di raccontare questa realtà, e non solo chiaramente, ma può aiutarci a dare la cornice della giornata di oggi. Salve a tutti, allora sì, faccio un piccolissimo passo indietro. A marzo la magistratura ha sequestrato i locali dell'ex canapificio perché c'erano degli evidenti problemi di inagibilità. Da quel momento l'associazione, che è attiva sul territorio dagli anni 90, si è ritrovata senza una sede. C'è stata una gara di solidarietà, ci sono parrocchie, associazioni e anche circoli sportivi che hanno deciso di ospitarli, ma questo ha creato dei problemi logistici, perché significa districarsi ogni giorno tra sportelli, iniziative varie e varie attività tra 10 sedi diverse. Molte delle attività vengono svolte quotidianamente in strada. E quindi, insomma, questa situazione si protrae, come dicevamo, da un po' di mesi, esattamente da marzo. Quindi l'associazione, a un certo punto, i volontari, gli operatori dell'ex canapificio, a un certo punto hanno chiesto al sindaco di poter avere una nuova sede, in attesa che la magistratura decidesse sul da farsi, perché quei locali vanno assolutamente messi in sicurezza e ci sono dei lavori che dovrà fare la regione in quanto ente proprietario di quei locali. Nel corso di una manifestazione pubblica del giugno scorso, alla quale hanno preso parte gratuitamente una sessantina di artisti che si sono esibiti proprio in nome della solidarietà e per dare una mano, durante quella manifestazione il sindaco ha annunciato pubblicamente che aveva trovato una sede per questa associazione. A quell'annuncio non sono seguiti fatti. Da qui la decisione dell'ex canapificio di scendere di nuovo in piazza con un presidio che si svolgerà qui in piazza Vanvitelli per l'intera giornata, per cercare di sensibilizzare i cittadini ma anche sollecitare le istituzioni ad accelerare quest'iter che dovrebbe poi portare all'apertura di una nuova sede. Qual è la tua idea invece sul terzo settore, la gestione degli spazi, cosa sta succedendo? Guarda, in realtà a Caserta noi abbiamo un regolamento che disciplina gli spazi comuni, i beni comuni, che negli ultimi anni ci ha consentito di fare qualche passo in avanti, quindi qui addirittura eravamo già allo stadio successivo, perché questo regolamento stabilisce che il comune ti assegna un bene incomodato d'uso gratuito, ma tua associazione ti occupi poi dei lavori di ristrutturazione, quindi c'è uno scambio, una partnership che dovrebbe rendere il tutto più veloce. È per questo che non si capisce il motivo per il quale questa procedura a distanza di un mese non sia neanche ancora iniziata, anche perché l'ex asilo di via Barducci è abbandonato da 4 anni ed è inutilizzato da molto prima perché non è più una scuola da parecchi anni. Già in passato le associazioni avevano provato in qualche modo a inserirsi in questo contesto, ma è durato un anno e mezzo, non di più, perché il comune aveva manifestato la volontà di vendere all'asta quel bene. In realtà quel bene poi all'asta non c'è andato più, è ancora disponibile, e quindi naturalmente i cittadini si chiedono come mai non si procede in tal senso e si preferisca lasciarlo abbandonato al degrado. Un'ultima domanda che ti volevo fare, perché noi non siamo di Caserta, quindi abbiamo fatto un bel po' di strada stamattina per arrivare. La cosa che ci ha colpito immediatamente è che per l'ex canapificio la posizione è strategica, anche perché è molto vicina alla stazione, è un posto che può far gola anche ad altro, effettivamente, così nel cuore della città. Adesso di fronte c'è l'Expo Pizza, per cui c'era un traffico, pullman, tutto. Hai centrato perfettamente il cuore del problema. Quella è un'area estremamente appetibile, sulla quale hanno già fatto pervenire i loro interessi la sovrintendenza, la Reggia di Caserta, l'università, ma anche la stessa Trenitalia, oltre naturalmente al Comune e alla Regione. Esiste infatti un progetto che si chiama Grande Reggia e che prevede la trasformazione di quell'area in un polo di accoglienza turistica. Ora, grazie ad un incontro che c'è stato qualche mese fa in Regione, i ragazzi dell'ex canapificio sono riusciti a strappare una promessa al vicepresidente Bonavitacola, al vicepresidente della Regione, ottenendo che accanto al progetto di accoglienza turistica ci potesse essere anche un polo del terzo settore legato in modo particolare all'accoglienza, ai servizi sociali, all'immigrazione. Verbalmente l'impegno della Regione c'è a soddisfare anche questa esigenza, che è un'esigenza che esiste in questa città e non solo per gli immigrati ma anche per i casertani, perché le attività svolte dall'ex canapificio non riguardano soltanto i rifugiati e i richiedenti asilo, ma riguardano anche molte famiglie meno abbienti e che vivono quotidianamente un disagio sociale. Quindi sì, c'è questo progetto, ma c'è anche la speranza che questo progetto possa essere modificato, almeno è quanto stiamo sperando tutti, anche noi cittadini. Daniela, grazie infinite e buon lavoro. Grazie a voi per l'attenzione che riservate a questi temi. Buona giornata e buon lavoro. Questo progetto deve continuare perché è un progetto importante, che l'ex canapificio a Caserta esiste da oltre 20 anni. Se non fosse per una parte di famiglie immigrate, non si affitterebbero altri appartamenti, altre case, quindi bisogna anche ringraziare loro, che già da una vita affittavano appartamenti, e qualcuno si lamentava pure praticamente quando vedevano gli immigrati, ok, sì, ma l'immigrato comunque ti paga l'affitto, comunque l'immigrato ti paga altre tasse e quant'altro. E non aiuta soltanto immigrati o comunque persone che arrivano appena in Italia, ma aiuta tante famiglie italiane, quindi di Caserta, della provincia. E le promesse purtroppo del comune, già finanziamenti già in atto, ma non vengono espletati. Allora, di tutto questo discorso, prima gli italiani, prima gli danno i soldi agli stranieri e non li danno agli italiani, l'idea che ti sei fatta tu, vedendo quello che invece può succedere quando uno le cose si mette a farle assieme. Allora, io sono una persona, a parte il fatto che non sono stata mai razzista e quindi di base non concepisco proprio il discorso di disuguaglianza in pratica, e sinceramente il fatto che noi siamo insieme a loro, loro aiutano noi aiutiamo loro, è la cosa più bella che ci può stare, perché sono persone, sono come noi, sono le stesse, come stanno loro nelle difficoltà, così ci siamo noi. Cioè, i problemi sono sia nostri che loro. Cioè, a te non ti è mai venuto in mente di dire, guardandolo solo la televisione o su Facebook, a dire, certo, a questi qua gli danno tutte queste cose? Io devo dire la verità, magari sarò un po' fortunata, però io quando sono andata per un aiuto l'ho ricevuto. Facciamolo pure. non facciamo venire più gli immigrati, no? Vediamo un po', ma perché l'Italia risolve la sua situazione lavorativa togliendo gli immigrati? Da famiglie serie, noi non vogliamo l'assistenzialismo, noi vogliamo il posto di lavoro, dateci dove ce lo volete dare. Però certamente io vorrei lavorare nella mia terra, tra la gente che conosco. Non è che io me ne devo andare a nord. Pensa che a mio marito gli hanno fatto una proposta di lavoro a Roma e lui diceva: ma io se mi devo prendere un affitto di una casa, le utenze, da mangiare, dice, ma io che do ai miei figli? E i tuoi figli invece, che, cioè loro... Che prospettive ci hanno qua? I miei figli non ha, guarda, mi viene da piangere perché io credo in questa città, ma loro vedendo quello che c'è in giro dice mamma, noi lo sappiamo che ce ne dobbiamo andare. L'ex canapificio di Caserta, dopo il sequestro, gli operatori con fatica continuano la loro attività nella canonica del vescovo Nogaro. Intanto nella struttura rubate coperte, cuscini e attrezzature, un danno da 10.000 euro. Gianocchetti. 400 persone a settimana, stranieri e italiani, vengono seguite per pratiche fiscali, permessi di soggiorno, assistenza per le denunce del caporalato. Nel frattempo, nella sede ritenuta dalla procura a rischio di crollo immediato, un furto ha causato danni ingenti. Da una stima approssimativa risulta ammontare a più di 10.000 euro di danni. Quindi tra... Cosa hanno preso? Hanno preso kit per l'accoglienza, quindi parliamo di coperte, cuscini, ma anche il piano cottura del bar. Questa situazione non può più andare avanti perché i danni poi sono quelli che sono sotto gli occhi di tutti. Insomma. Per i lavoratori, questi 40 lavoratori, qual è la situazione adesso? Quali sono le prospettive per loro? Drammatica, in effetti noi siamo 40 lavoratori del progetto SPRAR, dipendenti del centro sociale ex canapificio, che è un'associazione di volontariato, ma per numero di lavoratori è equiparabile ad una media impresa italiana, se consideriamo che l'Italia in media ha delle piccole imprese, molte anche al di sotto dei 15 dipendenti. Noi siamo praticamente una sorta di piccola impresa sociale con 40 dipendenti tra italiani immigrati, che non ricevono il pagamento degli stipendi da 5 mesi, così come i 200 ragazzi in accoglienza del progetto STAR non ricevono il pagamento dei tirocini da 5 mesi e noi da aprile non possiamo fare la spesa, andiamo a fare il banco alimentare fuori supermercati grazie anche agli scout che ci aiutano, quindi la situazione da questo punto di vista è drammatica e con un senso di fortissima esasperazione. La prospettiva per adesso non è rosea. Nel momento in cui il Ministero dell'Interno ha bloccato l'ultima tranche del finanziamento che ci doveva nel 2018 senza motivazione, aspettiamo, come tutti gli altri comuni dello SPRAR in Italia, la prima tranche del finanziamento 2019 che dovrebbe arrivare tra pochissime settimane e ci auguriamo che arrivi a noi come a tutti gli altri comuni senza altre sorprese negative, perché se questa ulteriore tranche non dovesse arrivare noi saremmo costretti probabilmente a chiudere, perché non si può portare avanti un progetto indebitandosi come ci stiamo indebitando e continuando ad andare fuori ai supermercati a fare il banco alimentare. E a chi dice che ci sono tante famiglie italiane povere che hanno bisogno di aiuto e per le quali voi non, del business dell'accoglienza non fate nulla, che rispondi tu? Rispondo che lo SPRAR di Caserta, quindi l'accoglienza degli immigrati a Caserta, ha permesso di aiutare 1087 famiglie che non ricevevano, che non avrebbero potuto senza lo SPRAR ricevere l'intera erogazione dei buoni libro. Ha aiutato 200 famiglie solo nell'ultimo anno con bambini piccoli a poter usufruire del Piedibus, che è un progetto gratuito di accompagnamento a scuola a piedi per ridurre l'inquinamento. Rispondo che grazie allo SPRAR la città ha potuto beneficiare di villette che prima erano chiuse e che adesso vengono aperte e gestite da italiani e immigrati, e giusto per citare qualche altra cifra, solo nell'ultimo anno grazie allo SPRAR 60 bambini hanno potuto, quasi diciamo di sia autoctoni, cioè sia figli di immigrati che figli di italiani, hanno potuto beneficiare di attività educative gratuite come dopo scuola, laboratori di musica, di arte e di scoperta del territorio. Quindi non c'è c'è distinzione e anzi bisogna saper utilizzare gli strumenti sociali che lo Stato mette a disposizione per aiutare tutti. Business è una parola che presa così vuol dire tutto e niente, dipende da come si fanno le attività e da come le si restituisce anche alla città. Caserta su questo oggi può fare scuola in tutta Italia, in tutta Europa, ma non grazie al canapificio, grazie ad una rete di associazioni che va molto oltre il canapificio e grazie ai cittadini che hanno saputo riconoscere una genuinità nel lavoro che si fa e hanno risposto con passione. Sono Prosper Genfi, mi chiamo. Sei anche tu che arrivi da Ghana? Dal Ghana? Sì, sì. Ok, quindi parli Twi? Sì, sì. È tanto tempo che io non parlo Twi, quindi sì. Scusami, devo parlare in italiano. Non male. Meno male. E tu vivi qua a Caserta? No. Io vivo a Castelbattuno. Ah, ok. E qua vieni per parlare con un avvocato? Sì, sì, fatto spesso. Come ti stai trovando qua adesso che è chiuso lo spazio vicino alla stazione, l'ex canapificio? Un po' difficile perché si vede come la situazione qui, un po' di fatica. È la mattina che sono qui, quindi si vede come prima subito la cosa si fa, però mo è un po' difficile come sta la cosa. Quasi impossibile fare certe cose come prima, però speriamo che la cosa cambia e ci auguriamo. Speriamo, è importante per tutti, penso, qua. Sì, è normale, ci auguriamo per il bene di tutti. Va bene, qua i ragazzi sono contenti, si trovano bene con lo spazio, riescono a... Siamo non contenti, contenti no, si dice una cosa che è temporanea e speriamo che... E stasera a che ora torni a casa? Dipende quando mi lo chiamo, abbiamo un appuntamento durato tra un'ora, due ore. Però sempre arrivo a casa alle 7, 8 di sera. E col lavoro come fai? Tu lavori? Sì, sì, ho fatto tipo giardiniere a Cosone. E quindi come fai quando vieni qua non vuoi lavorare? No, perché mi sono lavorare. Per parlare con gli avvocati, per dove è dentro la chiesa? La dentro? Ma chi lo vuole? Le persone che stanno qua, che ne pensano di... Cioè, se ti devo dire la verità, non ho notato nessun atteggiamento, magari, non so, non favorevole comunque a loro, cioè non ho notato astio, né magari sono stati problemi, risse, niente di questo, quindi normale. Per ascoltare e riascoltare Radio Antenna Migrante, vai sul sito www.stranieriincampania.it. RAM vive all'interno di Impact, FAMI 2014-2020, codice 2451, cofinanziato da Unione Europea, Regione Campania, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero dell'Interno. Grazie e a risentirci alla prossima.